Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo? Ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a nove code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori, siamo arrivati in questo mercoledì 30 dicembre 2015, anche oggi Oscar Giannino da solo perché Alessandro Milan si è preso qualche giorno di vacanza, e quindi fino alle 9 andremo avanti per saltabeccando, per così dire, tra le notizie del giorno, l'avete già sentite molti di voi nella rassegna stampa, per costruire una specie di filone alternativo, un po' ridanciano, un po' ironico, un po' serio su quello che propone l'informazione oggi sui giornali. Naturalmente io comincio sempre, come direbbe Alessandro Mina, il cardinal Giannino, un po' sfottendomi sul dal santo del giorno. Oggi auguri a chi si chiama, e chiamandosi così però festeggia così, Eugenio, perché è Santo Eugenio da Milano, un difensore della cristianità, era un vescovo al seguito di Carlo Magno, ma anche a chi ha dei nomi un po' singolari però con dei santi che ricorrono oggi, perché oggi è anche Sant'Anisio, Sant'Egvino, Sant'Ermete, San Giocondo, San Felice primo Papa, quindi auguri a tutti, per così dire, coloro che festeggiano oggi. Allora, i giornali di oggi, io vi invito a telefonare all'800240024 e a darci le vostre opinioni al 349-238-6666. Il tema del giorno è ovvio, si impone su tutti i giornali, i punti di vista saranno diversi, io ne richiamerò alcuni e poi avremo due ospiti intorno a questo tema, e il tema è il tono, il taglio, le parole dette dal Presidente del Consiglio ieri nella sua conferenza stampa di fine anno alluvionale. Vedremo come i giornali notano un tono diverso rispetto a quello dell'anno scorso. E la domanda mia a voi è, da quello che avete capito, vi piace di più dell'anno scorso, vi convince, oppure vi sembra che ci siano nei toni e negli argomenti di Renzi insomma dei segni di incertezza nel fatto che le cose poi non vadano così bene come lui le descrive, dei segni di nervosismo perché nei sondaggi il Movimento 5 Stelle è sempre più vicino, quindi chiamateci e diteci come la pensate sul Renzi di ieri, così avremo due ospiti anche oggi da due punti di vista diversi su questo stesso argomento. Io mi limito a dirvi e a segnalarvi che naturalmente una piccola guida ragionata dei giornali italiani vede delle cose diverse, per così dire. Per esempio, ci sono giornali come il Corriere della Sera e La Stampa che prendono posizione, cioè hanno degli editoriali che commentano le parole del Presidente del Consiglio, e le commentano ovviamente diversamente. Il Corriere della Sera ha un editoriale di Pierluigi Battista, l'avrete capito nel tempo, a me Pierluigi Battista mi ci ritrovo abbastanza spesso nei suoi giudizi e mi piace, ma al netto di questo Pierluigi Battista fa un commento dal titolo Fenomenologia di gufi e sobillatori, e alla fine di questo commento Pierluigi Battista nota appunto che insomma il tono del Presidente del Consiglio rispetto a un anno fa è un po' cambiato, dice le espressioni facciali di Renzi sono cambiato moltissimo, prima era più baldanzosa, ora è meno felice politicamente, si intende, prima per lui parlava solo il futuro, il cronoprogramma, era tutto una promettente avventura, oggi il tempo scorre inesorabile e il gioco si fa duro, o con me o contro di me, e con il cambiamento o state col cambiamento oppure con la schiera infetta dei gufi, e quindi conclude Battista, in Renzi ci sono meno sorrisi, meno complicità con i giornalisti amicalmente chiamati per nome come avveniva nella prima conferenza stampa, più circospezione, più sospetto addirittura, sembrerebbe un Renzi preoccupato, ma forse considererebbe Renzi da gufi sottolinearlo, quindi c'è un Corriere della Sera critico. La stampa invece ha un commento di Federica Geremica il quale è più ottimista. Il quotidiano diretto praticamente ancora per poche ore da Mario Colabresi, che poi passa a dirigere Repubblica con l'anno nuovo, nel commento di Federico Geremica si dice che in realtà è abbastanza vero che i conti del governo sono in attivo rispetto al populismo. Sentiremo che Renzi si è vantato, no, di aver vinto 4-0 rispetto al populismo fino a questo momento, anche se lo stesso Federico Geremica poi deve scrivere: beh, insomma, in Italia politica batte populismo 4-0, non soltanto non è proprio così, ma la piccola bugia forse addirittura rivela quella che è diventata da un paio di mesi a questa parte la principale preoccupazione del Premier: la difficoltà, nonostante le cose fatte, ad arginare le impetuose avanzate di quello che spesso definisce populismi irresponsabili. Se la sintesi possibile del 2014 fosse quella suggerita da Renzi, saremmo tutti più sollevati, ma le cose purtroppo stanno in un altro modo. Qui c'è un errore, è la sintesi del 2015, non del 2014, quindi come vedete anche la stampa esprime dei dubbi. La notizia è che Repubblica invece non dedica un editoriale a commentare Renzi, e si capisce che Repubblica è in un guado, in una transizione tra la direzione di Ezio Mauro e quella di cui siamo in attesa, cioè del direttore della stampa Mario Calabresi, e quindi ci sono pezzi, molto numerosi pezzi, che descrivono le slide, la conferenza stampa, l'attacco ai gufi, l'attacco alla Merkel, insomma tutte le cose che trovate nel riepilogo, però un vero e proprio commento di editoriale non lo trovate. Ovviamente poi ci sono i giornali critici, il giornale che fa un titolo Renzi solo chiacchiere è distintivo, e questo è abbastanza scontato, per così dire. A me piace il Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano sottopone a verifiche i numeri citati nelle slide da Renzi, ecco. E mi piace questo perché sui numeri, in alcune delle slide, non ci siamo proprio, cari ascoltatori. Cioè ieri il Presidente del Consiglio ha vantato 300.000 occupati in più, effetto del Jobs Act, delle decontribuzioni. Si sorvola sempre sul fatto che queste stime non sono quelle del Istat, ecco, perché se andiamo a vedere i numeri dell'Istat, e chi avesse dubbi vada a verificare sul sito lavoce.info per quello che attestano le diverse ricerche, le diverse metodologie sul mercato del lavoro, bisogna sempre ricordare che noi abbiamo da una parte Istat, dall'altra le diverse fonti INPS, dall'altra le rilevazioni sulle comunicazioni, cessazioni e attivazioni del mercato del lavoro fatte dal Ministero del Lavoro. In ogni caso, se andiamo a vedere in Istat da inizio di questo 2015, a ottobre, fino a ottobre 2015, gli occupati aggiuntivi del 2014 erano in tutto più 2.000 occupati a tempo indeterminato, 2.000 soli, più 178.000 a tempo indeterminato, cioè precari, e meno 97.000 lavoratori autonomi. Altro che 300.000 in più e tutti a tempo indeterminato in più. Questo dicono i numeri, non so cosa dirvi, però Renzi in questo ci ha travolto in questo 2015, cioè ha imposto con battenti comunicazioni pubbliche, come ha fatto ieri, un numero che nei numeri di contabilità nazionale non c'è, e praticamente i media gli sono alla fine andato dietro, tranne alcuni che per scrupolo secondo me controllano, e secondo me fa bene il Fatto a controllare. Per esempio i mutui, un'altra cifra di ieri, più 97% dei mutui. Allora, su questo già i conti della Belva, anche noi più volte il sabato ci siamo tra virgolette divertiti, si fa per dire, con Mario Seminario e Alberto Cannavale Maffè, a dirvi che non è vero. Questa stima dell'ABI, che era a novembre più 94% sul 2014 e adesso è diventata a dicembre del più 97%, comprende tutte le surroghe e tutte le rinegoziazioni delle linee di mutuo già esistenti nel 2014, quindi non è affatto una crescita. Tanto è vero che se andate a vedere per gli stessi mesi date di Banca d'Italia, come il Fatto oggi correttamente riporta, troverete che la stima dello stock di crediti data dalle banche italiane alle famiglie è totalmente invariata rispetto all'anno scorso. Allora, il nostro mestiere, secondo me, i giornalisti, è quello di fare le bucce ai politici che sparano i numeri così. Quindi io devo dire, il Fatto oggi lo fa più di tutti gli altri, che invece si bevono un po' con eccessiva, diciamo, disinvoltura le cifre sparate ieri da Renzi. Vedremo con come la pensate voi, vedremo con i nostri due ospiti di approfondire un pochino meglio le opinioni, ma intanto io vi segnalo altre notizie sui giornali di oggi che a me hanno sfrigolato un po' tanto, e comincio con una notizia di quelle che io vorrei in prima pagina, perché dà l'idea di come vanno le cose in Italia, il famoso paese dove tutti dicono di tagliare la spesa e di abbattere le tasse, e poi scopriamo sempre che la spesa continua ad aumentare e le tasse non scendono. Allora, se oggi vi prendete o se leggete abitualmente il Corriere della Sera, troverete che a pagina 23 ecco un'altra conferma di come vanno davvero le cose in Italia. E di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che sui biglietti aerei salgono le tasse, ma quando dico che salgono le tasse significa che ogni 100 euro di biglietto aereo in Italia vede 68 euro andare in tasse, 68 su 100. In Turchia su 100 euro di biglietto aereo 1,8 euro va in tasse, negli Stati Uniti tra 23 e 26 dollari su 100 dollari di biglietto euro, da noi 68 euro su 100. E questo dà l'idea, e dà l'idea soprattutto del fatto che comunque continuano a salire queste addizionali, perché appunto dal primo gennaio si paga di più, perché mentre la IATA, cioè l'Organizzazione Internazionale del Traffico Aereo, prevede un costo dei biglietti in calo in tutto il mondo, stiamo parlando di un calo notevole, in 10 anni di più del 60% di costo medio delle tariffe aeree, da noi, grazie al fatto che ci sono 2,5 euro di addizionale a favore dei comuni che si aggiungono ai diritti di imbarco in tasse che già esistono sugli aeroporti nazionali, ecco che il prelievo fiscale sale ancora. Dopodiché i 9 euro che si sborsano su ogni biglietto appunto per addizionale comunale diventano 10 nel caso di Fiumicino e di Ciampino come tassa commissariale dell'ENAC. Ecco, io invito tutti a vedere la tabella comparata che c'è Corriere della Sera rispetto agli altri paesi, e a capire qual è la realtà vera con cui veniamo regolarmente buggerati, a dirvi la verità, quando ci raccontano che siamo nel paese in cui le tasse scendono. Sì sì, come no, come no. Poi altra riflessione: c'è solo in Italia, in Europa, il populismo? No, non è vero. Se pensate alla Spagna, bloccata senza governo politico alla fine delle elezioni della settimana scorsa, e senza governo neanche in Catalogna, la Catalogna che è il grande problema nazionale. Non solo, pensate agli Stati Uniti. Su questo, se siete interessati a questo, secondo me è molto bellino l'articolo che c'è sulla Stampa a pagina 15 oggi sul fenomeno Trump, che ha completamente sconvolto fino a questo momento la campagna in vista delle primarie che cominciano tra poco negli Stati Uniti, per poi arrivare alle elezioni presidenziali l'anno prossimo, e mi ritrovo molto in questa analisi di Francesco Semprini, scritto sulla Stampa a pagina 15. Il titolo dice tutto: il paradosso di Trump, più è scorretto più piace, e c'è un grafico che nel tempo dà l'idea delle battute più pesanti, più non solo colorite, più politicamente scorrette, a volte rivoltanti, che l'imprenditore del real estate, dell'immobiliare americano, lanciatosi nella campagna per i repubblicani delle primarie, ha di volta in volta pronunciato. E si vede nel grafico come più la sparata grossa, più ha insultato, più ha parlato senza rispetto o degli immigrati o dei messicani o di John McCain o di Hillary o di un giornalista che aveva handicap e un handicap fisico, lui si è messo a scimmiottarlo senza nessuna pietà, per così dire, senza nessun rispetto. Ogni volta che ha fatto questo, zac, è schizzato nei sondaggi. Quindi guardate che non funziona solo in Italia così, e il problema non c'è solo in Italia, per così dire. Allora, ancora sulla beffa dei blocchi stradali, non voglio tornare oggi perché i giornali continuano, ovviamente beffa si intende dopo le giornate di blocco totale o targhe alterne come a Roma, o blocco totale come a Milano, si fa per dire, perché poi un blocco totale solo in alcune ore della giornata. Tutti hanno capito che comunque l'inquinamento delle polveri sottili salgono e non scendono. Oggi vedremo, e su questo molti giornali approfondiscono, che cosa esce fuori dal incontro tra governo, sindaci e presidenti di regioni, che chiedono una cornice nazionale, ma chiedono soprattutto soldi. Vedremo quanti soldi escono dalle tasche dei contribuenti per le nuove misure di coordinamento nazionale ambientale. I quotidiani si dividono in tre categorie: c'è chi dice 2 miliardi di euro stanziati, c'è chi dice 3, c'è chi invece dice 4,5, perché ieri il ministro Delrio ha annunciato che potrebbe essere Cassa Depositi e Prestiti a tirar fuori 4,5 miliardi per comprare vetture e treni per il trasporto regionale e darle ai comuni e alle regioni che non hanno i soldi. Cassa Depositi e Prestiti è diventata un po' come la fatta turchina oramai, perché siccome è fuori dal perimetro pubblico ma raccoglie i soldi postali, ecco che improvvisamente c'è Cassa Depositi e Prestiti fa tutto nel nostro paese. E a proposito di Poste, cari risparmiatori che avete paura dopo le quattro banche, anche qui una notizia che è solo il fatto a scrivere, perché Poste, che si è scatenata dall'indomani della risoluzione delle quattro banche con questa campagna in cui vi dice risparmio sicuro nel Far West, ci vedono proprio i pistoleri nel Far West del risparmio, noi sì che siamo la vera sicurezza, è ovvio, perché c'è la garanzia di Stato su i depositi e i libretti e i certificati delle Poste, e con le Poste e CDP che fa adesso la banca di Stato che risolve ogni problema. Eppure il Fatto Quotidiano a pagina 7 ha il merito di essere l'unico a sfidare la banca di Stato e a ricordare che l'antitrust multa Poste proprio per pubblicità ingannevole su un suo prodotto di risparmio con 540.000 euro, e anche Banca Italia sta indagando sul fatto se i risparmiatori sui prodotti di risparmio postale abbiano avuto davvero gli interessi pattuiti. Quindi, cari risparmiatori, tenete gli occhi aperti. Un'altra notizia che c'è su un ultimo giornale, e poi andiamo in pubblicità, questa volta è il giornale ovviamente è cattivello con gli ambienti di governo e con gli ambienti renziani, quindi possiamo avere un sospetto di pregiudizio nei confronti di questa notizia, però è comunque sfrigolosa e di quelle interessanti. Cioè, dopo il nuovo accordo per il governo nazionale in Libia, che potrebbe precostituire la cornice per interventi con risoluzioni dell'ONU guidati dall'Italia per una pacificazione nazionale in Libia, ma anche interventi di tipo militare in Libia, dove ci sono milizie islamiche dell'ISIS e così via, il giornale dice che in realtà la campagna libica il Matteo Renzi la affiderebbe a un suo fedelissimo. E qual è questo fedelissimo? Marco Carrai, presidente degli aeroporti toscani, ma soprattutto amico fidato del premier. Allora, e la vicenda è intorno a un ex manager dell'ENI, Alessandro Bellodi, ex capo della relazione istituzionale dell'ENI, quindi ambiente petrolifero, conosce bene la Libia, per questo che all'inizio dell'anno ha fondato una società dedicata alla sicurezza informatica, CIS4, e ci si trova anche ovviamente il Marco Carrai, anziano presidente degli aeroporti toscani dentro, e a questa società il presidente del consiglio affiderebbe un incarico tra la spy story e la diplomazia non ufficiale dell'Italia in Libia. Vediamo se davvero sarà così. Allora, adesso andiamo in pubblicità, poi sentiamo un paio di vostre telefonate e chiamiamo i nostri due ospiti, e il tema è: vi ha convinto davvero Renzi oppure no in questo paese in cui paghiamo 68 euro su 100 di tasse per ogni cazzo di biglietto aereo? Pubblicità. Eccoci qui, tornati diretta alle 8:36 primi, questa versione ristretta solo con me di Attenti a noi due, e aspettando che torni il mio compare Alessandro Milan. Allora, ci siamo lasciati dopo un po' di riflessioni, siccome i giornali hanno diversamente commentato o non commentato, nel caso di Repubblica, le cifre, i toni della conferenza stampa di Renzi, e con un po' di altre notizie, sul capire come la pensate voi. Allora, prendiamo due telefonate di quelle che ci avete fatto. Domenico da Mantova, le è piaciuto la convinta Renzi ieri? Pronto. Eccoci. Niente, non mi ha convinto per niente. Secondo me, dopo un primo, mi assomiglia tanto a quei teleimbonitori che la prima volta che vanno in televisione vendono le pentole, vendono, si ricorda il baffo, no? Quando vendeva tutta quanta quella roba lì. Ma quando invece poi dopo gli arriva la roba a casa, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra storia. c'è quello da pagare, c'è quell'altro da pagare, c'è qualcun altro che ti convince che devi comprare altre robe, perché sennò il prezzo che ti ha fatto all'inizio non è valido. Per quanto riguarda del perché sono convinto che le cose non vanno bene, io commercio in frutta e verdura, consegno nei ristoranti, nei negozi, nelle pizzerie la frutta e verdura. Vi posso assicurare che c'è un calo consistente. Il calo, non si è fermato, quindi secondo Domenico no, ancora? No, assolutamente non si è fermato. E aggiungo un'altra cosa. Stanno morendo un sacco di partite IVA. Questo il signor Renzi nelle sue slide, nei suoi disegnini, non lo fa vedere. Renzi è un bravissimo teleimbonitore. Ok, dove quindi? Attenzione, perché i teleimbonitori poi sono bravi con consenso, quindi non sottovalutiamo. Fabrizio da Pisa invece, lei come la vede, come la pensa, le è piaciuto? Dottor Giannino, buongiorno. Buongiorno. Senta, io non ho la possibilità di fare dei riscontri numerici come quelli che ha citato Pianti, però dal mio punto di vista ho la sensazione netta che il potere di spesa degli italiani sia aumentato. Sì. Lo si vede dovunque io mi giri. Mi pare che ci sia un problema grosso da risolvere, grossissimo, che è il problema dell'edilizia. Io sono un ingegnere che ormai da 40 e passa anni opero nell'edilizia. Beh, lei lo sa che l'edilizia è, cioè, le costruzioni è il settore che ha perso di più in totale di valore aggiunto in questi anni di crisi. Stiamo parlando di oltre il 50% rispetto al 2007. Quindi tornare a quei valori, secondo me, sarà praticamente impossibile. Non è possibile, però così, non è possibile, perché ormai l'80% degli italiani, noi non vendiamo più appartamenti, noi operiamo nelle ristrutturazioni, ed incentivare l'edilizia solo con le ristrutturazioni la vedo una cosa difficilissima. Però d'altra parte è l'unico problema che deve essere secondo me affrontato in maniera radicale. Però Fabrizio, lei dice per il resto dei segnali ci sono in realtà, quindi lei non è critico, dice insomma Renzi incoraggiamolo e portiamolo più avanti invece che sparargli addosso, se capisco bene. Allora, come vedete, la forbice di opinioni è come è giusto, come è legittimo, è aperta, per così dire. Allora, prima dei nostri due ospiti, iniziamo da uno dei punti delle dichiarazioni di Renzi di ieri. Richiamiamolo, è quello che forse contrassegna di più i toni ultimi del Renzi, un po' preoccupato per le proposte, le proteste di fronte ai decreti delle quattro banche, il Renzi che prende di petto la Germania. L'Italia non chiede sconti, l'Italia non è al discount, l'Italia non è ai saldi, l'Italia sta chiedendo che le regole europee valgano per tutti. C'è un paese che non ha rispettato il 3% quando ha fatto la riforma del mercato del lavoro. È la Germania, non l'Italia. Allora, citerà poi il Presidente del Consiglio anche il fatto che la Germania continua a violare i limiti posti nelle regole europee per il saldo positivo commerciale della bilancia dei pagamenti. Allora, vediamo i nostri due ospiti come hanno sentito, come giudicano ieri il tono, i contenuti del Presidente del Consiglio. Sono con noi, per questo ho messo il lancio sulla Germania, Udo Gumpel, giornalista e corrispondente dell'Italia per la rete televisiva tedesca NTV. Buongiorno e grazie Udo di essere con noi. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. E Claudio Velardi, buongiorno Claudio Velardi, buongiorno, grazie anche a te. Voi. Allora Udo Gumpel, che ti è sembrato di questo Presidente del Consiglio in questi ultimi tempi e ieri? Ma mi è sembrato di vedere una persona in evidente difficoltà. In tedesco c'è un'espressione che si dice che adesso con questo clima caldo non si adagia molto, ma cammina su ghiaccio molto sottile, perciò lui teme da un momento all'altro di sfondare. E la sua polemica con la Merkel e in Germania non l'hanno quasi neanche presa nota di questo fatto, perché quello che dice sono vecchi campi, diciamo, cavalli di battaglia della polemica contro la Germania. Quella del deficit era un deficit del 1991-92, quando la regola del 3% non esisteva neanche, che si riferisce al governo Schröder, che fece le riforme serie dello Stato sociale, che per uno o due anni dovette andare fuori il parametro del 3% e che oggi è diventato un limite regolare. E poi quello del saldo della bilancia commerciale e sta nelle regole stesse, che non è una regola ma una raccomandazione, perciò non è neanche sanzionata, e così c'è scritto negli accordi di cui lui sempre si vanta, no? Quello che invece mi ha fatto una impressione è quasi un po' di tenerezza quando lui giocava con le cifre del deficit permesso all'Italia, ovvero lì un 0,2, lì 0,3, 0,5, fa questo, fa quello, In realtà lui deve temere molto il giudizio della Commissione sul bilancio dello Stato italiano, perché lui ha sforato le promesse, come ha detto un ascoltatore. Lui ha venduto un anno fa molto bene agli italiani e alle europee, ancora meglio la sua come figura, come grande rinnovatore d'Italia. Ha fatto delle cose, però ha fatto molto molto meno di quanto ne ha promesso. Anche in Europa ha promesso un sacco di cose che non sta mantenendo la parola. Lui va ancora forse la sua grande scommessa, ha fatto una finanziaria quasi completamente in deficit. Non ha fatto quello che lui ha promesso in Europa e anche agli italiani innanzitutto, ovvero tagliare enti utili, inutili, come le famose 8.000 società pubbliche, semipubbliche, che Cottarelli gli aveva anche suggerito. Non ha fatto il taglio durissimo nella spesa statale, perché si capisce, perché questo è gran parte anche del pubblico che vota il suo partito, le sue difficoltà, queste frange che escono a sinistra di protesta, che gli hanno fatto perdere la regione Liguria e che lo mettono spesso in minoranza nei ballottaggi all'ultimo giro, sono anche una parte dell'elettorato del PD che non trova in lui la persona che mantiene tutte le sue promesse. E allora io lo vedo come Presidente del Consiglio in evidente difficoltà, e lui deve sperare che l'economia europea, spinto da Mario Draghi, spinto non ultimo anche dalla Germania, dai paesi del centro dell'Europa, vada bene e trascini un pochettino l'Italia per riuscire sul filo del rasoio a arrivare col 0,1-0,2 nel deficit dell'Italia, che è sempre più alto di quello promesso. Dunque, allora, chiarissimo, quello che dici tu, ti correggo solo per una cosa che ti è sfuggita, il deficit relativo a quello dei governi delle riforme, Schröder e poi Merkel, non era negli anni 90 ma inizio negli anni 2000, ma questo ti è sfuggito solo appunto per così, della ricostruzione del passato. Però Udo Kumpel dice, insomma, è in difficoltà. Claudio Velardi, so che non la pensi diversamente, spiegaci perché. Sì, perché ho l'impressione che siate tutti caduti nel tranello che vi ha teso Renzi. Fino a quando uno come Renzi è in grado di la prima regola di un uomo politico è individuare i nemici. Quando può dare in pasto all'opinione pubblica dei nemici, che siano i gufi, i rosiconi, i populisti, gli sfascisti, i conservatori, chi vuoi, quest'uomo politico sta tranquillo. Non ha alternative, e questa è la realtà oggi di Renzi. Grazie al fatto che ha tanti nemici e che lui è bravo a produrne in continuazione, Renzi non ha alternative. Fino a quando non avrà degli avversari, non dei nemici, Renzi continuerà a vincere. Lui per questo può dire con tanta tranquillità, lasciamo perdere le preoccupazioni, quelle ci sono per la situazione generale, ma può dire con una certa tranquillità, io vinco al primo turno nel 2018. E peraltro anche se si va al secondo turno, ma davvero possiamo pensare che con l'Italicum un elettore della destra, voglio dire una persona normale, va a votare per Grillo? Queste sono cose che possono dire i giornalisti, oppure quelli... No, Claudio, aspetta, no, i giornalisti non lo so, i sondaggi sembra... I sondaggi, Oscar, ma... Figurati, ma io per primo... Davano sullo stesso piano Grillo e Renzi, poi Renzi prese il 40 e Grillo il 20. Per carità. Hai capito? I no, ma figurati. Questo. Ma per questo allora, ha senso parlare da punti di vista diverso, perché anch'io rifuggo dall'idea, insomma, come dire, non mi piace l'idea che più passa il tempo, più lui identifica chi critica i numeri. Per esempio, per me criticare i numeri è il mio mestiere. Detto questo, non mi sfugge il fatto che esiste il problema che dice Velarde, cioè siamo proprio così sicuri che poi ci sarà la santa unione di tutti, che non a caso poi di cui Renzi sembra aizzarla per primo, convinto che gli faccia un piacere. Secondo me è questo problema che pone Velarde, c'è. Allora, quello che però mi lascia perplesso, Claudio, te lo dico con grande sincerità, se poi vedo nel suo campo ci sono più dubbi del passato, o sbaglio? Veniamo al punto, per questo ti stavo dicendo nemici e avversari. I nemici, quelli che sono contro Renzi per partito preso, perché Renzi è antipatico, perché magari è un po' un impunito, perché racconta un sacco di cose e poi ne fa la metà, esatto, una parte, teniamoli da parte. Il vero problema è creare, dal punto di vista del sistema, perché a me quello interessa, a me non interessa niente di Renzi, è creare dal punto di vista del sistema degli avversari credibili. Ma allora che cosa dovrebbero fare questi avversari credibili, che stiano a sinistra, a destra o dove vuoi? Dovrebbero incalzare Renzi sulle cose non fatte o fatte a metà. Allora, quando lui ha detto ieri io sarei per lo scioglimento dell'ordine dei giornalisti, questa notiziola, invece di diventare un titolo di tutti i giornali, dovrebbe essere una cosa dicendo ti prendiamo sul serio, ecco la proposta, ecco attenzione, attenzione, ma non ordine dei giornalisti, no. Ma dei giornalisti, degli architetti, dei notai, di tutti i professionisti, cioè gli ordini professionali. Allora l'avversario intelligente di Renzi, invece di dire che fa la slide sui gufi, ma chi se ne frega di questi gufi? Dice Renzi, tu li devi sciogliere questi ordini professionali. Ma io però a quel punto voglio sapere, così chiudiamo il cerchio, che cosa pensano gli architetti, i notai e tutti i professionisti che seguono Radio 24 e sono poi gli elettori, i quali elettori italiani sono conservatori perché non vogliono il cambiamento. E allora qui ha ragione mille volte Renzi, che questo cambiamento lo annuncia, un po' lo realizza, un po' in parte, ma naturalmente lo fa a piccoli passi, perché altrimenti il risultato di tutto questo è che Renzi va a perdere le elezioni, e se perde le elezioni è un fesso, siccome non è fesso lui le elezioni non le vuole perdere. Chiaro il ragionamento? Il tuo ragionamento è chiarissimo. E devo dire che anch'io, quando l'ho sentito ieri iniziare con uno schiaffo in faccia al presidente dell'ordine dei giornalisti dicendo forse per me lo abolirei, io ho detto magari, subito magari. Naturalmente quello che dice Verardi, cioè una controproposta immediata di una destra concreta o di un'opposizione concreta che dice ecco questa è la nostra proposta, l'abbiamo già scritta, ci aspettiamo che tu ci dai una mano a farla, non c'è, perché ovviamente poi sugli ordini tutti a parole dicono una cosa, di fatto quello che vince è il conservatorismo. Io su questo lo penso come Velarde dall'inizio alla fine. Sentiamo un altro passaggio di Renzi, però quello su uno dei punti forti della sua comunicazione forzata, secondo me, il PIL e l'economia, cioè sentiamolo sul PIL. Se noi guardiamo i dati di quest'anno possiamo vedere che il PIL torna a crescere, più 0,8, era previsto uno 0,7. Vorrei ricordarvi, perché la realtà dei fatti è più forte di ogni e qualsiasi opinione, che era il meno 2,3% nel 2012, meno 1,9 nel 13, meno 0,4 nel 14. Allora Gumpel, uno dei punti forti della comunicazione di Renzi è quella, lui ha cominciato ieri dicendo le cose vanno meglio di quanto avevamo previsto, poi cita il primo numero e dice che in realtà vanno un po' peggio di quello che avevano previsto, stiamo parlando di decimali, non stiamo parlando di chissà che cosa, però il punto di forza di Renzi è dire guardate che l'Italia stupisce il mondo perché va meglio dell'Europa e del mondo, e anche qui non dice le cose come stanno, però alla fine, come si vede anche da un po' di telefonate di gente che ci scrive, lui è diventato il campione di un ottimismo italiano e dice basta piangersi addosso. Chiedo a Udo Gumpel, al di là del fatto che il nostro mestiere è quello di rispettare i numeri per come stanno e di beccare i politici se ne citano altro o li leggono in maniera impropria, ma in realtà questa fiducia più ottimista sull'Italia serve o non serve, Gumpel? Guarda, la fiducia serve naturalmente, i numeri dicono che l'Italia quest'anno nel 2015 ha una piccola ma ha una crescita, dunque non cala più, questo è già un dato di fatto molto importante. Dall'altra parte invito il nostro pubblico, forse se lo sono conservato, confermato la coppia del Corriere della Sera anche di ieri, che comunque lì portava una notizia molto importante, che una commissione, un gruppo di studiosi dell'Unione Europea, della Commissione, ha guardato la crescita o lo sviluppo di ciò che si chiama la produttività, no, dell'Italia rispetto agli altri grandi paesi, non solo europei ma anche del mondo, e lì si nota che da circa 15-20 anni, cioè tempi lontani, oltre addirittura dell'introduzione dell'euro, è in forte calo, ovvero ormai c'è un gap del 30-40% tra l'Italia e i suoi paesi vicini. Il fatto sta che l'Italia non è più il sesto o il quinto paese con l'economia più forte del mondo, ma il nono, e tra alcuni anni non sarà neanche più un paese del G10, ovvero l'Italia è un paese in calo continuo, con la sua produttività che ha il minore investimento. Allora, in realtà è un paese in gravissima crisi. Allora, questo tema di Udo Gumpel mi convince da sempre. Io penso che la produttività sia un problema addirittura più grave della finanza pubblica italiana. La finanza pubblica si consolida meglio quanto più elevata è la crescita e la produttività che manca. È un problema che precede l'entrata nell'euro e non c'è come punto fondamentale nell'agenda pubblica. Non c'è, non solo per la politica, che è un po' distante da questo problema, ma perché anche su questo alzare la produttività significa cambiare l'impostazione delle imprese in tutto il campo dei servizi, non aperti alla concorrenza sul mercato domestico. Serve non solo cambiare la testa sull'offerta dei servizi pubblici ovviamente inefficienti, ma a cominciare da quelli privati. Serve cambiare la testa su come si contratta nelle aziende, e per primi molti imprenditori in realtà non vogliono la conflittualità di una contrattazione aziendale. Cioè serve una rivoluzione culturale. In questo chiedo a Velardi, potrebbe battere, non sarebbe meglio che battesse un po' di più sulla produttività? Che... Ma certo, certo che sì, perché ad esempio questo è un tema di fondo. Teniamo presente che naturalmente quando esce il grafico, diciamo, del Corriere di ieri, questo che la produttività è in calo da 20 anni è un fortissimo argomento per Renzi. Non so se è chiaro, non è un argomento contro Renzi. Naturalmente però l'avversario intelligente di Renzi che cosa fa? Lo stimola sul fronte delle liberalizzazioni, della produttività, della lotta agli incumbent, esatto, alle grandi aziende, alle grandi rendite, come no, dell'energia, della telefonia, eccetera, che impediscono che vadano avanti la liberalizzazione del sistema, e poi con le imprese che naturalmente dovrebbero fare di più per le produttività. Ma appunto l'argomento non è presentare il grafico, perché appunto il grafico dà armi a Renzi per dire guardate che paese ho preso. L'argomento invece è dire bene, bisogna fare questo, allora è aprire una polemica feroce con Telecom che ritarda per esempio l'avvio della banda larga, no? Ok, però tu lo sai che questa maggioranza e il governo Renzi, quando si è trattato di fare la legge sulla concorrenza, quel di buono che c'era nella legge della concorrenza in Parlamento è sparito. Comunque, questo è per dire, cari ascoltatori, poniamoci in termini rispettosi di questo dibattito. Anche oggi abbiamo chiamato due voci, una più critica, quella di Udo Gump, una più a favore, Claudio Velardi. Vedremo, perché il percorso è accidentato. Renzi ha detto chiaramente il referendum sulle riforme, non le amministrative di giugno, su cui mi pare che abbia molti problemi, ne sia consapevole, ma il referendum sulla riforma diventa il vero certificato: se vinco resto, se no vado a casa. È una vera e propria chiamata di una prova di Dio, un'ordalia per così dire. Intanto grazie ai nostri due ospiti, sentiamo ancora come la pensano alcuni di voi. Cominciamo con Francesco da Brescia. Francesco, prego. Buongiorno signor Giannino. Eccoci. Io sono un medico del lavoro e opero su Brescia. Sì. Sinceramente parlando non sono molto d'accordo sulle statistiche dell'Istat e quant'altro, perché noi operiamo sul campo e vediamo quotidianamente aziende, e le dico sinceramente che la situazione, per quanto mi riguarda, almeno nel bresciano, è di molto cambiata. Quando si parla che non ci sono assunzioni a tempo indeterminato, la questione non va posta in questi termini. Molte aziende stanno reintegrando tutti i loro cassi integrati. Bene. È un indicatore molto importante del che sta aumentando tantissimo la produttività, certo, e il lavoro. È un'altra cosa. Molte aziende stanno ritornando al turno notturno, e quindi il turno notturno significa un turno in più di lavoro, produttività elevata con lo stesso personale. Quindi per poter vedere variazioni nell'Istat, secondo me, bisogna aspettare ancora tempo, cioè quando avranno saturato anche tutto il personale che hanno nelle proprie organiche le aziende. Ho capito Francesco, però nel frattempo noi non è che possiamo dire i numeri dell'Istat non fanno testo, perché ripeto, un paese nel quale ognuno si fabbrica i numeri è un paese in cui il dibattito pubblico ognuno se lo fa a modo suo. Io difendo i numeri di contabilità nazionale, e a dire la verità li difendo più dello spregiudicato in modo in cui si danno i numeri su attivazione e cessazione di contratti di lavoro, spesso dimenticandosi delle cessazioni, perché le attivazioni e cessazioni di numero di contratti nell'arco dell'anno non sono i posti di lavoro effettivi aggiuntivi o in meno, visto la reiterazione e la percentuale di tempo determinato sul totale dell'occupazione italiana. Allora, per il momento nell'Istat, per il momento dico, quello di cui parla il governo, enorme numero di occupati addizionali, a stragrande maggioranza a tempo determinato, non c'è. E siccome non c'è, il mio compito è dirlo, perché altrimenti che cacchio di dibattito pubblico facciamo? Ma questa è la mia opinione. Stefano da Bologna, come la pensa? Sì, buongiorno. Intanto scusatemi perché sto andando a lavoro, quindi magari sentite qualche rumore, no? La considerazione è sull'affermazione di ieri di Renzi sul tema delle tasse, sì, dei famosi 80 euro. Io sono direttore commerciale di un'azienda da qualche decina di milioni di euro, e volevo far notare che a fronte di questo supposto calo di imposizione fiscale, dall'altro entrano dei rattoppi che io ritengo un po' bizantini. Vi faccio un esempio. Noi quest'anno ci siamo trovati a spaggettare sulle spese relativa al legale senza che fosse il nostro avvocato a farci sbagliettare, perché sono stati introdotti per il recupero crediti, per i depositi, per fare un decreto preventivo, sì, dei diritti fissi, esatto, che hanno completamente mandato i vostri conti, perché poi il conto il termine sbaggettare significa andare oltre i limiti del bilancio, è un po' da smanettoni per così dire del bilancio. Ecco, questo è un po' vero, si annunciano dei tagli e si mettono degli aumenti, per cui il conto finale è che poi il totale delle entrate sale. Cari ascoltatori, è andata anche oggi così, continuate intanto con Radio 24, appuntamento con me per chi vuole oggi alle 16:30 e domani mattina ancora per attenzione. Attenti a noi due, continuate.